Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. A Torino, in piazza, con i premi Nobel, incominceremo così questa puntata di Möbius. Benvenuti e benvenute, e adesso ascoltiamo i titoli. I Nobel in piazza a Torino, presentati da Pier Giorgio Odifreddi. È stato uno dei momenti più divertenti di ESOF 2010, ma si è anche parlato dei metodi di apprendimento dei robot. Il teorema della palla pelosa e il teorema dei quattro colori sono alcuni dei concetti matematici messi in mostra ad Artematica dagli artisti dell'Accademia di Belle Arti di Torino. Centenari si nasce. È scritto nei nostri geni se spegneremo le 100 candeline. Dalla fotografia al cinema, l'esperimento Fermi di Trieste ci permetterà di filmare eventi ultraveloci. ESOF 2010. ESOF è un acronimo che vuol dire Euroscience Open Forum. Si è svolto la scorsa settimana a Torino. È un appuntamento che c'è ogni due anni in una delle grandi città europee. Riunisce ricercatori e ricercatrici tendenzialmente molto giovani e tendenzialmente europei, però insomma la scienza non ha confini, quindi arrivano anche da tutto il mondo. Però insieme a loro ci sono anche grossi scienziati, importanti scienziati, che danno uno stato dell'arte della ricerca nelle aree più diverse della scienza. E poi però in parallelo nella città, questo convegno che mi dicevo è un po' per addetti, invece in città si organizzano diversi appuntamenti dedicati appunto al largo pubblico. Uno di quelli più divertenti è stato condotto da Pier Giorgio Odifreddi, come al solito abile e brillante moderatore, che ha portato in piazza tre premi Nobel. In realtà però voi qui sentirete soltanto che cosa è avvenuto, che tipo di chiacchiere e incontro c'è stato tra Odifreddi e uno di questi tre, Peter Agree, premio Nobel nel 2003 per la chimica. Questa presentazione di Odifreddi è iniziata con una serie di diapositive che raccontavano un po' la vita di Peter Agree, e lì insomma si è iniziato parlando dei suoi baffi. Allora, vedremo anzitutto alcune fotografie legate alla vita dei nostri tre laureati. Dovrebbero andare in onda, non so come si dice, ecco qua. Questo signore, nonostante quello che sembri a vederlo così, è proprio lui. Vedete che ogni tanto ha i baffi e altre volte non ha i baffi. Allora vorrei incominciare a chiedergli se ci sono semplicemente fasi alterne della sua vita in cui ha i baffi e poi se li toglie, no? O invece se c'è stata una fase prima con i baffi e poi una fase senza. Questa è una domanda naturalmente molto scientifica, perché bisogna cominciare volando alto, no? Poi vedrete anche perché... Vorrei chiedere anche al pubblico di partecipare un po'. Coloro, chi è che preferisce il mimè con i baffi? Alzate la mano. Chi è che mi preferisce senza baffi? Alzate la mano. E chi è che non preferisce niente del tutto? Non mi piaccio. Quando avevo 55 anni, i miei baffi si sono ingranditi, sono diventati sempre più grossi. Una mattina mi sono guardato allo specchio e ho visto John Bolton, l'ambasciatore di George Bush, che mi stava guardando dallo specchio. E allora a quel punto immediatamente mi sono rasato. E mia moglie ha detto: Peter, sembri molto più giovane. Ha parlato di George Bush, credo che non sia naturalmente un caso, perché il professor Agree è in realtà impegnato in tante cose, poi lo vedremo anche tra qualche minuto, ma è stato anche uno dei firmatari di un appello contro la politica di George Bush. Io però ho visto una fotografia di lui insieme ai vincitori del premio Nobel nel 2003 nello studio ovale di Bush. Che cosa ha pensato quando si è trovato vicino a Bush? Cerco di differenziare George Bush l'uomo e George Bush il presidente. La persona è una persona molto simpatica. Per esempio, se aveste un barbecue sarebbe una persona straordinaria da invitare. It was the day job I had problems. Era il problema del lavoro che faceva di giorno che mi creava problemi. Sarebbe quello come barbecue, nel senso di carne arrosto oppure come ospite. I would get in big trouble if I answered that. Io potrei trovarmi nei guai se rispondessi a questa domanda. Ho appena sentito, mi hanno appena fatto vedere tra l'altro che con un cartello che in realtà possiamo andare avanti oltre le 20:30 perché sembra, non ho capito bene per qual motivo, ma intanto la partita non interessa più a nessuno. Quindi credo che voi non lo sappiate, ma we can actually go over a 30 because apparently the football, the soccer game is not important. Ma adesso però veniamo naturalmente a qualche cosa di più legato al primo periodo della carriera scientifica di Peter Hagen, perché il Nobel che gli è stato dato nel 2003 era un Nobel legato a qualcosa che tutti poi abbiamo imparato a conoscere, che è quello che si chiama l'acqua porina. Ora vorrei che lui ci spiegasse in due parole, in maniera più semplice possibile, che cos'è questa acqua porina e perché è una scoperta così importante da aver meritato addirittura il premio Nobel. Two thirds of our body mass is water. Due terzi della massa corporea è fatta d'acqua. All of us, tutti all noi, living things. Tutti gli esseri viventi. E in life, nella vita, water is essential. L'acqua no life è essenziale. Water. Non c'è vita senza acqua. So each of us, quindi ciascuno di noi, actively secreting cerebrospinal per esempio, sta secernendo liquido cerebrospinale nei nostri cervelli. Aqueous humor in oppure our acqueo nei nostri occhi o le lacrime. When we eat, we salivate. Quando mangiamo produciamo della saliva. We concentrate our urine. Noi concentriamo la nostra urina attraverso i reni. The roots of plants take water. Le radici delle piante succhiano acqua dal terreno. How does this happen? Com'è che succede tutto questo? And it turns out nature has a la natura system. Ha un sistema idraulico, a per very così dire. System. Un sistema molto semplice. It's comprised of proteins che called aquaporins. È fatto di proteine che si chiamano acquaporina. So we discovered the acquaporina. Quindi noi abbiamo scoperto proprio queste proteine. Ah, c'è qualche cosa che è arrivato. E questo è uno strumento che Peter Agri ha comprato, so, just five minutes, che Peter Agri ha comprato in Sudafrica, non so cosa volesse farne. E quando eravamo all'Indau mi ha detto, ah sì, gli ha detto, dovremmo fare un dibattito sul palcoscenico. Lui dice, io ho una vuvuzela, quindi vediamo che cosa ne vuole fare. Penso che in chimica ci servirebbe un po' più di quello che sto per farvi sentire. Negli ambienti dei Nobel e della ricerca scientifica in generale, Peter Agri è anche noto per essere l'unico in grado di cantare questa singolare canzone, oddio canzone insomma, praticamente lui sa a memoria tutta la tavola degli elementi di Mendeleev e la canta in questo modo. Antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, iron, amber, and uranium. Europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, and protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, and terbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, chromium, lithium, beryllium, and barium. Al convegno, insieme a tanti seminari, a tanti piccoli sottoconvegni, ci sono diversi stand in ogni edizione di ESOF dedicati, gestiti dagli enti di ricerca più diversi europei. Un importante ente di ricerca è stato quello del Ministero della Ricerca Scientifica tedesca, però era anche sabato scorso. Allora, ad un certo momento, in questo stand si sentivano codeste cose. Sono rimasto abbastanza sorpreso nel vedere come i giovani ricercatori e ricercatrici tedeschi seguono le azioni del calcio. Lo si può capire da questa registrazione. Ascoltate. Allora, in pratica, quello che avete sentito non è stato nient'altro che un estratto di una delle tantissime azioni durante la partita. In pratica, dall'inizio alla fine di ogni azione della Germania, l'emozione dei presenti era così elevata che in ogni singolo dribbling, ogni singolo passaggino era seguito con gridolini, dubbi, ansie, versi di varia natura. E ogni volta che appariva Maradona inquadrato dalla televisione, il pubblico faceva così. Sempre continuando su Esof, vi dico che c'è un sito internet molto grande dedicato a questo appuntamento biennale. L'indirizzo www.esof2010, cioè 2010.org. È un sito un po' disordinato, ma insomma si può percorrere bene dopo tutto. Su questo sito ci sono le registrazioni audio-video di molte conferenze che si sono tenute al meeting, un meeting grosso, insomma, ve lo ricordo, hanno partecipato più di 2500 persone, nel quale si sono tenuti durante questo meeting almeno un centinaio di seminari in molti campi della scienza, anche per esempio nel campo della comunicazione scientifica, della didattica, lo dico per gli insegnanti in ascolto. Vi dico anche che in questi seminari gli oratori hanno sempre mantenuto un livello abbastanza accessibile nel trattamento dei contenuti, con l'obiettivo sempre di presentare un certo stato dell'arte, della ricerca nel campo che li riguarda. Allora vi ripeto allora l'indirizzo www.esof2010.org. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come ogni puntata, adesso arriva il quiz. Domanda: qual è il meccanismo che sta alla base dell'airbag, quel cuscino che si gonfia, no? Lo sapete, rapidamente, d'aria, si gonfia d'aria in caso di incidente in auto. Prima possibilità è l'accelerometro e ci scriverete accelerazione. Seconda, c'è un sensore elettronico direttamente connesso al frontale della macchina e questo scatta quando avverte la pressione di un corpo che collide. Ci scriverete sensore. Terza e ultima possibilità, un cavo in tensione viene spezzato dall'urto e questo cavo, rompendosi appunto, attiva l'airbag e ci scriverete cavo. Dove? Con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Il bambino filosofo, come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare e capire il senso della vita, scritto da Alison Gopnik, edizioni Bollati Boringhieri. In collaborazione con IBS.it. Chiara, ti saluto. Ciao Federico, buonasera a tutti. Chiara Albicocco fra un po' ci parlerà di centenari. Sì, centenari genetici, cioè genetici. Ce l'abbiamo scritto nei geni se diventeremo centenari. All'ESOF a Torino si è parlato di robotica, sai che c'è questo progetto, insomma questa mission quasi di avere dei robot che assisteranno le persone di una certa età. Certo. I giapponesi sono ormai proprio sparati in questa direzione. In questo settore, sì. Va bene, adesso però parliamo di altre cose che riguardano il robot. Devi fare un piccolo esperimento. Ti faccio sentire un filettino che ho dato prima in regia e tu mi devi dare la tua impressione. Sì, brancolo nel buio. Partiamo. Centenari si nasce. Se arriverete a soffiare le 100 candeline è scritto nel vostro robot! Il risultato è un importante studio pubblicato su Science Peter. Da un team di ricerca internazionale. È giusto quello che ha fatto Peter, il nostro regista. Puoi sfumare, Peter. Paola Sebastiani. È giusto, giusto. Cosa state dicendo? E ti abbiamo anche registrato. In effetti questo è l'inizio del servizio che ci sarà fra un po'. Perché? Perché cos'è che hai fatto tu in questo momento? Sapendo esattamente... Sono allibita. Sapendo esattamente tutto quello che dobbiamo fare, abbiamo progettato. Hai sentito qualcosa che non funzionava perché è l'inizio del tuo servizio che andrà fra 10 minuti e immediatamente hai detto non ci siamo, qui ti sei messa a ridere. Ci siamo sbagliati. Ecco, questa è la capacità di predire, essere pronti a capire quello che dovrebbe succedere, qualunque cosa che possa succedere, confrontarla con quello che hai come memoria e capire che non va bene. E quindi io... E quindi tu, siccome non sei un robot, hai reagito in un microsecondo. Questa è di gran lunga la cosa più difficile che si pensa possa fare un robot, e quindi siamo molto lontani da averla già implementata. Ti è piaciuto questo scherzo? Sì, mi è piaciuto, vi ringrazio, grazie Peter. E adesso invece sentiamo una intervista con Giulio Sandini del IIT, uno degli istituti in Italia che lavora di più nel campo della robotica, e Sandini ci racconta per quale ragione sia importante studiare l'apprendimento nei robot. Nella mia presentazione ho cercato di motivare un po' il perché è necessario avere i robot che imparano, no? Poi dopo credo che una volta che si è determinato che in realtà il robot deve in qualche maniera imparare e si è trovato il modo in cui il robot impara, poi sia un processo che non finisce, insomma, va avanti. Quindi il punto di svolta è riuscire ad avere dei robot nei quali si sia innescato il processo dell'apprendimento. Sì, sì, esatto. Cioè un po' impostare il processo in qualche maniera, no? Quindi quest'idea dello sviluppo è perché in realtà lo sviluppo rappresenta un po' un modello di apprendimento che non finisce mai, no? Che continua a crescere e diventa, diciamo, sempre più, diciamo, abile a fare cose, no? Però è un processo senza fine, di fatto. E perché è così difficile innescarlo? Qual è il punto critico? Sono due i punti critici. Il primo punto è, diciamo, rappresentato dal definire quali sono le cose che il robot deve sapere all'inizio, no? Deve partire da un background, diciamo, da uno strato di cose che è in grado di fare o di percepire, no? Quindi questo qui è il newborn robot, cosa deve saper fare, no? Quindi questo qui è ovviamente una delle domande a cui bisogna rispondere, e la seconda è diciamo il processo proprio di apprendimento, che tipo di meccanismi devono essere messi in piedi e devono essere messi in funzione perché il robot possa imparare, insomma. E quindi diventa fondamentale il rapporto tra ricerca robotica e tutto ciò che è ricerca sul funzionamento della mente, sulle neuroscienze, il rapporto diventa strettissimo. Vabbè, c'è senz'altro, cioè è la stessa cosa, secondo me, insomma, vale dire, perché a meno che uno non abbia in mente di realizzare intelligenze diverse da quella umana, è chiaro che il cercare di realizzare robot che imparano vuol dire andare a studiare come funziona la mente e come funzionano i nostri meccanismi di apprendimento. E qui viene fuori sempre da parte di alcuni l'obiezione che il nostro comportamento, la nostra mente ha una storia lunghissima, evolutiva, come poi è possibile bypassare questi milioni di anni, però allo stesso tempo si guarda ai bambini e al bambino di 1, 2, 3, 9 mesi e lì in fondo vediamo in poco tempo una certa storia evolutiva. Sì, diciamo è il processo, quello che chiamiamo processo di sviluppo, no? Che in realtà, se vogliamo, ha molte analogie con il processo evolutivo, no? Fatto in un periodo evidentemente molto più breve, però in un sistema che in realtà si modifica, cioè un bimbo di un mese è fra virgolette una bestiolina diversa di un bimbo di 3 mesi, proprio perché anche le sue capacità sensoriali si modificano. Quindi l'evoluzione forzata, se vogliamo, forzata, diciamo, dall'ambiente e dall'interazione con l'ambiente. Il patrimonio genetico è consolidato, no? E si ripete ogni volta, no? Quindi quella lì è informazione acquisita, no? Che da un certo punto di vista è fondamentale, no? Dall'altro, se ci fosse solo quella sarebbe un grosso limite, perché saremmo come le cavallette che non imparano a fare nulla, diciamo, pur avendo un patrimonio genetico acquisito da milioni di anni, forse più del nostro addirittura, no? E poi questo desiderio di svilupparsi e di imparare, che è un altro, diciamo, delle, se vogliamo, dei misteri, no? Nel senso che perché impariamo, cos'è che ci spinge a imparare, no? Al robot noi lo diciamo, è il programmatore che gli dice impara a fare questo, impara a fare quest'altro. Nel caso degli umani, diciamo, è l'interazione in senso lato, però questa voglia di giocare, di imparare, no? Questa curiosità fa parte del patrimonio genetico ed è lo stimolo che poi fa partire il processo. Ringrazio Peter Bescapè in regia che mi ha aiutato a fare questo scherzo a Chiara Bicocco. Invece adesso Davide Coero Borga ci riporta a Torino ad Artematica, una mostra nella quale si è parlato del teorema della palla pelosa e del teorema dei 4 colori. Siamo in una galleria d'arte molto speciale Questi rumori che sentite di sottofondo sono dei numeri primi che vanno a schiantarsi contro una parete nell'opera di uno degli artisti che si sono sfidati su dei concetti che hanno a che fare con la scienza, di più, che hanno a che fare con la matematica. All'ingresso di questa mostra il teorema dei quattro colori e, una cosa curiosissima, il teorema della palla pelosa. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Eva Fieloramo, che con Lorenza Cusani è una delle due curatrici di questa mostra, che si chiama Artematica. Il teorema della palla pelosa è un teorema che ha il nome molto divertente, in realtà però... è noiosissimo. Sì, nasconde dietro di sé tutta una serie di cose matematiche molto difficili che non proverò neanche a spiegare. Diciamo che se noi consideriamo una palla tutta piena di peli, come se fosse un peluche, e cerchiamo di pettinarla con un pettine, senza staccare mai il pettine dalla superficie della palla stessa, ci sarà sempre un capello che sta ritto e che non riusciamo a pettinare come gli altri. Qua proprio davanti a noi ci sono decine di schermi dove compare una ragazza che sta tentando invano di pettinare i suoi lunghi capelli senza lasciar sfuggire ricci o punte volanti. E invece non potrà farlo. Adesso, vabbè, la ragazza fortunatamente per lei non è una sfera pelosa, cioè non ha la barba. Però diciamo che appunto fortunatamente qui non stiamo cercando di fare delle dimostrazioni, ma stiamo cercando insieme ad alcuni artisti, il gruppo Radici dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, di raccogliere la sfida lanciata dalle lezioni del professor Franco Pastrone e della professoressa Gemma Gallino del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino, ossia assimilare quattro concetti e teoremi matematici e interpretarli secondo l'espressione artistica. E allora andiamo a sentire cosa hanno da dire gli artisti direttamente dalle loro voci. Iniziamo con Davide Merello, che si è cimentato con i numeri primi. I numeri primi sono divisibili per uno e per se stessi. Il se stesso in questo caso è la coscienza dell'uomo. L'uno è l'altro, l'altra persona. Il titolo 201 simboleggia appunto 2 la coppia, 0 la solitudine e l'uno la coscienza. Un processo necessario per arrivare a capire qualcosa di sé. Mi chiamo Ermal Recepi, la mia opera si chiama Dadi Divini. L'idea di inserire i dadi su questo video installazione parte da un detto di Carl Friedrich Gauss, che secondo lui vede i numeri primi dispersi nella linea retta dei numeri naturali in modo casuale. È come se Dio avesse giocato a dadi con i numeri primi. Nell'opera butto un secchio di dadi, che sono per esattezza 1237, che sono anche un numero primo. Un gioco sui dadi, sui numeri. E per parlare di numeri, Enrico Partengo ha scelto invece i soldatini. Esattamente sono 5.443, più o meno per essere precisi, contati uno ad uno e messi nelle nicchie che a loro volta rappresentano idealmente un'ipotetica società da cui strabordano a un certo punto. Cosa ti affascina della matematica? Credo il ragionamento, i cervelli che stanno dietro la matematica. Genialità e capacità di interpretare la realtà, non dissimili da quello che è l'estro creativo. Decisamente curiose le pedane sulle quali sto camminando. I sensori, inseriti all'interno del legno, trasformano ogni mio passo in un numero primo. Un'idea originale. Al pianoforte per noi Fabrizio Amante, un artista che ha voluto rendere in musica la sua opera per racchiudere insieme tutti i teoremi matematici affrontati nella mostra. Che cosa hai voluto raccontare con questa tua performance live? Tutto il mio lavoro si basa su una domanda in particolare, ovvero quale bellezza si cela dietro dei numeri agli occhi di un matematico. Ho cercato di comprenderlo accostando, trasportando tutto sulla tastiera del pianoforte, che è un linguaggio a me più congeniale, più vicino. ho semplicemente trasportato dei numeri, decifrato delle lettere che si sono rivelate a mia insaputa sulla tastiera, appunto, perfettamente armoniche. Di conseguenza, cambiando la sequenza, ad esempio, della congettura dei numeri primi, si è rivelato essere tutta una sequenza perfettamente armonica che dava vita ad una melodia molto piacevole. Allora la matematica ha funzionato come strumento per esprimere delle emozioni. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, adesso forse si sa perché alcuni arrivano a 100 anni e ve lo racconta Chiara Albicocco. Centenari si nasce. Se arriverete a soffiare le 100 candeline è scritto nei vostri geni. E a rivelarlo è un importante studio pubblicato su Science da un team di ricerca internazionale. Tra gli scienziati che hanno lavorato ci sono anche alcuni italiani. Paola Sebastiani, che è prima firma nell'articolo della Boston University, e anche Annibale Pucca dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR di Milano e Multimedica. Il dottor Pucca è qui con noi questa stasera. Buonasera Pucca. Buonasera. Ecco, allora, avete rilevato le varianti genetiche che possono prevedere se un individuo compirà 100 anni. Ci spieghi? Ecco, per cercare di semplificare la cosa, facciamo un passo indietro. Ognuno di noi è diverso e lo è grazie al fatto che il nostro codice genetico non è uguale e per di più viene oltretutto modificato nel corso della nostra vita attraverso delle regolazioni, per cui non entro nel merito. Comunque, grazie a queste modificazioni noi siamo l'uno diverso dall'altro. Queste modificazioni vengono studiate per cercare di capire come i geni, quindi come il nostro codice genetico, influenza le nostre caratteristiche. Tra queste non solo le malattie, ma anche l'estrema longevità. Quindi noi ci siamo posti come problema quali sono queste varianti, quali sono le varianti che influenzano la nostra longevità ed eventualmente, se le si analizzano tutte insieme, quelle selezionate perché diverse in termini di distribuzione, cioè di probabilità di trovarle nel codice genetico dei centenari rispetto alla popolazione di controllo, quelle diverse noi cerchiamo di valutarle tutte insieme per vedere se questa analisi ci permette di dire che se una persona è longeva o meno senza saperlo al buio. Ecco, si può dire che avete in un certo modo identificato le caratteristiche genetiche di un centenario. E quali sono? Ci sono queste firme genetiche che poi sono la combinazione di queste varianti. A seconda, sono 19 quelle che identificate da questo studio, che è uno studio fatto sulla popolazione americana. Queste 19 firme distinguono anche non solo i centenari dalla popolazione in generale, ma anche nell'ambito degli stessi centenari quali sono quelli che non hanno patologie associate, perché i centenari possono essere o estremamente sani oppure aver contratto le malattie da giovani e essere poi sopravvissuti alle malattie. Mm-hmm. Questa, ci sono quindi vari modi di arrivare a 100 anni. Il modo con cui si arriva a 100 anni, anche questo dipende dalla firma genetica, quindi ci sono alcune combinazioni di queste varianti che influenzano il nostro modo di invecchiare al punto da darci non solo una marcia in più per arrivare a 100 anni, ma anche una marcia in più per non contrarre le malattie dell'invecchiamento. Ecco, mi incuriosisce capire come avete fatto questo tipo di studio, questo tipo di analisi. Bene, lo studio, il reclutamento dei centenari dura da 15 anni, l'ha iniziato il dottor Pearl, almeno per quanto riguarda questo studio, quello sui centenari americani. Pearl ha iniziato nel, credo, 95, io sono andato negli Stati Uniti nel 98, abbiamo fatto uno studio sulle famiglie molto importante, che ebbe anche una grossa risonanza, dopodiché abbiamo iniziato a lavorare su i cosiddetti sporadici, cioè non su fratelli e sorelle, ma su centenari che non imparentati. L'analisi che abbiamo fatto, siamo stati lungimiranti, perché noi abbiamo iniziato a reclutare centenari non imparentati, non avendo ancora a disposizione le tecnologie che oggi sono uscite, mm-hmm, che ci permettono di interrogare il genoma, quindi il codice genetico, in migliaia se non centinaia di migliaia di questi punti, queste variabili, e quindi il confronto oggi si può fare non è banale, ci sono molte problematiche che vanno risolte dal punto di vista metodologico, dal punto di vista anche di artefatti che possono essere introdotti in uno studio, però la questione di fondo è che noi riusciamo oggi a comparare il genoma, le varianti del genoma dei centenari con quelle della popolazione controllo, e i numeri purtroppo sono estremamente importanti, per cui questi studi in genere si fanno su centinaia se non su migliaia di individui, proprio per ridurre quegli artefatti che sono legati a questo studio, questo tipo di studi per una popolazione non adeguata. Ecco, c'è uno studio simile italiano oppure adesso c'è questo grosso studio americano e basta? Io ho reclutato nel Cilento, sono partito nel 2001, oggi abbiamo fatto lo stesso tipo di raccolta di dati genetici su circa 600 centenari e altrettanti controlli. E quindi abbiamo anche un lavoro molto importante che è al vaglio dei nostri colleghi, perché funziona così il metodo, certo, scientifico, e non avevamo ancora fatto l'analisi, che è un'analisi che la Sebastiani ha creato per questo tipo di studio, cioè la signature, cioè la firma genetica, è legata a un approccio statistico innovativo. Questo approccio, questa analisi innovativa, lei l'ha creata per questo studio. Noi oggi abbiamo adottato lo stesso approccio anche sugli italiani, proprio ieri ho avuto il dato, sembra che funzioni perfettamente, però i dati sono diversi, nel senso che le varianti che loro hanno utilizzato non sono le stesse che utilizziamo noi. Perché noi comunque ne abbiamo tanti, di centenari in Italia. Noi ne abbiamo tanti, sì. Ci sono alcune zone che sembra che ce ne siano di più. Bisognerebbe valutare se non è legato al fenomeno dell'emigrazione dei giovani, quindi i vecchi sono quelli che rimangono nelle aree rurali. Noi studiamo il Cilento perché è una terra dove c'è poca immigrazione e quindi la omogeneità della popolazione è anche molto importante per questo tipo di studi. Ecco, ci sono delle influenze di tipo ambientali? Beh, ovviamente nella genetica no, però sicuramente nel modo di vita. L'influenza, l'ambiente conta moltissimo. Quello che io dico sempre è che studiare i centenari ci permette di cogliere dei meccanismi genetici che inducono il centenario a vivere a lungo, ma che possono essere tranquillamente replicabili nella vita di tutti i giorni, quindi per persone che eventualmente non hanno il codice genetico da centenario, però adottando delle abitudini che vengono poi prese da questo tipo di studi, quindi i meccanismi molecolari sono gli stessi. Cioè quelli che vengono influenzati dai geni sono gli stessi che vengono influenzati dall'ambiente. Faccio un esempio, se c'è un gene, quindi il genoma variato influenza il metabolismo dei lipidi, noi possiamo mimare questo vantaggio mangiando in un certo modo, utilizzando determinati lipidi nell'alimentazione. E adesso, dottor Puca, da queste importanti acquisizioni che scenari si aprono per la biomedicina? Moltissimi, e allo stesso tempo bisogna, secondo me, più che parlarne, lavorarci sopra. Io penso che è sicuramente un passo ulteriore nel convincimento che la genetica ha un'influenza molto forte sulla longevità. Quando io ho iniziato a lavorare in questo campo si era molto scettici sul fatto che ci fossero dei geni che influenzino la capacità di vivere a lungo, quindi qua stiamo parlando di estrema longevità, perché poi questo si somma, diciamo, al dato precedente che effettivamente c'è una forte componente genetica. Il fatto ora di poter valutare che ci sono anche delle firme genetiche che ti fanno invecchiare in un certo modo piuttosto che in un altro può essere sicuramente uno step successivo, e questo ci permetterà di eventualmente valutare perché queste firme influenzano la capacità di non ammalarsi delle malattie dell'anziano, quindi perché non si contrae l'Alzheimer, perché non si contrae le malattie cardiovascolari, perché queste persone sono esenti, immuni. Questa è la domanda Io nel mio lavoro cerco anche di rispondere in parte a queste risposte sugli italiani. Noi siamo entrati nel meccanismo d'azione di una di queste varianti ed abbiamo una risposta abbastanza chiara, che poi gliela posso pure accennare perché è intuibile. Cioè il gene o la modificazione del codice genetico che influenza l'attività di questa molecola va a influenzare un meccanismo che è a sua volta influenzabile dall'esercizio fisico, dalla restrizione calorica, certo. Ed è un meccanismo oramai abbastanza studiato e approfondito, che è quello appunto dell'attivazione della biogenesi mitocondriale, cioè la cellula quando ha bisogno di energia, ed è una condizione che si ha in restrizione calorica o durante l'esercizio fisico, si attiva per produrne di più. E quindi i mitocondri, che sono poi il motore delle nostre cellule, producono energia, rimangono in allenamento, rimangono, si moltiplicano, e questo ci permette anche di perdere peso a riposo, ci permette di attivare tutta una serie di meccanismi molecolari che poi ci buttano giù la pressione, ci buttano giù il grasso, buttare giù nel senso ci riduce, diciamo, il giro vita, colesterolo e così via dicendo. Insomma, mi pare di capire che il cammino ancora è lungo, ci vuole tanta ricerca, ma un buon passo è stato fatto. Grazie dottor Puca e davvero buon lavoro. A lei, arrivederci. Come si dice, le disgrazie non vengono mai sole. Come se non bastassero gli effetti disastrosi del petrolio nel Golfo del Messico, adesso un gruppo di ricerca dell'Imperial College a Londra ha ricavato dati sufficienti per dire che a seguito di questa drammatica fuoriuscita di petrolio si corre il rischio che i livelli di arsenico presenti nel mare si alzino in modo preoccupante, il che ridurrebbe al minimo le possibilità di ripresa di quell'ecosistema. Esperienze passate di petrolio finito in mare, la famosa petroliera Exxon Valdez, molti la ricorderanno, che una quindicina di anni fa riempì di greggio una baia canadese. Molti di questi episodi ci dicono che con una grande buona volontà la natura si riprende. Dopo un bel po' di anni si può dire che le cose tornino normali, certo con tutti i danni subiti prima, con tutto il prezzo pagato. Ma sappiamo che la piattaforma della British Petroleum ha superato di gran lunga tutti i disastri precedenti e quindi vi sono stramotivanti timori che si sia superata, come dire, la soglia di non più ritorno alla normalità. Il nuovo problema: l'arsenico è un componente delle acque marine che però è tenuto sotto controllo dai sedimenti, quelli che stanno sui fondali, i quali svolgono una funzione di filtro. Tuttavia l'arsenico è anche contenuto nel petrolio. E se la dose sale, il filtraggio funzionerà? La vicenda è complicata dal fatto che il greggio è anche una sostanza collosa che funziona benissimo per sigillare la porosità dei sedimenti marini e quindi, indipendentemente dal fatto che contenga petrolio, il greggio funziona anche da tappo. Cosa fa l'arsenico nel mare? Ebbene, entra nella catena alimentare di tutte le specie marine e da qui può produrre cambiamenti genetici, non solo, può anche alterare profondamente la fotosintesi della vegetazione marina. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, vi ricordo qual era l'interrogativo, qual è il meccanismo che sta alla base dell'airbag, è l'accelerometro, è un apparecchietto sofisticato che è in grado di registrare un cambiamento improvviso di velocità, quando questo cambiamento avviene in un tempo davvero molto corto, molto più corto di un'auto che frena. In realtà qui si misura una decelerazione, ovvero un'accelerazione negativa, perché quando c'è un tamponamento l'auto diminuisce rapidamente di velocità. L'accelerometro è un dispositivo che trovate da tante parti, sapete, anche in alcuni videogiochi e nei più moderni cellulari, e non ho tempo adesso, informatevi, vedrete che è così. Proseguiamo con Mebius, in qualche modo parliamo anche qui di tempi molto corti, fissare in immagini eventi ultraveloci, cose che avvengono in frazioni inimmaginabili di un secondo. Si può? A Trieste sì, e ve ne parla Maurizio Melis. Siamo a Torino, siamo all'ESOF, all'European Science Open Forum, si è appena conclusa, diciamo così, la presentazione di questo grande esperimento che si sta realizzando in Italia, o meglio di questo grande macchinario per fare esperimenti, che è Fermi, un laser a elettroni liberi. Sono qui con Daniele Cocco, che è responsabile di trasmissione fotonica, un nome insomma da supereroe. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire laser a elettroni liberi. Il laser a elettroni liberi, in inglese free electron laser, lo chiamiamo brevemente FEL, che è il termine con cui la comunità scientifica lo denomina, è una macchina che parte da degli elettroni accelerati a velocità relativistica, quindi alla velocità della luce, con dei campi elettrici, interagiscono con un laser all'interno di dei device magnetici chiamati ondulatori, dove gli elettroni incominciano ad oscillare ad una frequenza uguale a quella del laser. Entrano dentro una seconda catena di ondulatori lunga una quarantina di metri, dove emettono la radiazione coerente e molto brillante. Questa luce si chiama radiazione di sincrotrone perché è prodotta da elettroni sincronizzati. In verità, rispetto alla radiazione di sincrotroni, ha una brillanza, ovvero una quantità di fotoni emessi per unità di tempo e per unità di angolo solido circa 10 miliardi di volte superiori a quelle delle sorgenti classiche di luce di sincrotrone. Diciamo che questo fascio è sottilissimo e quindi, come dire, l'energia che c'è dentro non è tantissima, però in realtà, se andiamo a vedere quanto è densa, beh, viene fuori un paragone molto strano, ma che colpisce. Esatto, hai ragione, soprattutto la densità, non la quantità assoluta. Quando noi prendiamo questa luce, la focalizziamo su un campione, creiamo la stessa densità di energia che avremmo se noi riuscissimo a prendere tutta la luce del Sole che arriva sulla Terra e la concentrassimo in un centimetro quadro. Quindi cos'è? Una specie di flash potentissimo, in un certo senso, per fare delle fotografie particolari? Hai usato il termine flash, che è la prima macchina che è stata inventata di questo modo, si chiama esattamente flash. Sì, in pratica sì, sono degli impulsi brevissimi. I 30 femtosecondi, per dirla, sono il tempo in cui gli atomi, non proprio più leggeri come l'idrogeno, ma quelli tipo ossigeno o carbonio, reagiscono. Il tempo in cui la luce percorre una distanza brevissima, tipo pochi micron. E noi vogliamo questi impulsi, tutti in questi tempi così brevi, perché vogliamo andare a studiare le dinamiche dei processi fisici e chimici nei minimi dettagli. Provo a girarla in un altro modo. Diciamo che noi stiamo fotografando un evento sportivo e c'è bisogno, come dire, di una macchina fotografica e di un flash che abbia dei lampi brevissimi in modo da riuscire a riprendere le varie fasi di questo movimento atletico, per esempio, diciamo un salto con l'asta, mentre prima noi riuscivamo, come dire, o a vedere una roba molto sfocata oppure a vedere il nostro amico pronto ai blocchi di partenza e poi giù sul materasso. In alcuni casi sì, si può dire così. Nel caso che hai citato tu, direi che potremmo seguire un passo sì e uno no dell'atleta per il momento, però il target finale è quello di riuscire poi a perseguire ad alta definizione l'atleta che fa il salto. Diciamo, come passare un po' dalla fotografia al cinema. Esatto. Ecco, questa è una delle possibili applicazioni, ma ci sono quattro classi di esperimenti. Sì, quello che secondo me potrebbe avere il più ampio interesse nella comunità dei biologi, delle scienze naturali, è quella che viene chiamata diffraction and projection imaging, nel quale si sfrutta la coerenza della luce prodotta e si riesce ad andare a vedere con la risoluzione della lunghezza d'onda. Noi produciamo radiazione fino a 3 nanometri. Un nanometro, per intendersi, è un milionesimo di millimetro, giusto? Sì, un nanometro, un milionesimo di millimetro. Un nanometro è grosso modo il diametro di un atomo, un po' di più, ma più o meno il livello è quello. Quindi con quella risoluzione noi possiamo andare a vedere dei campioni biologici. Ora, qual è il problema, o qual era il problema in passato? Il problema in passato è che quando tu irradi un campione biologico, sì, ne ricostruisci il profilo, però mentre lo irradi lo danneggi e lo uccidi pian pianino. Noi lo uccidiamo molto più velocemente, però prima che lui muoia riusciamo a ricostruirne il suo profilo. Per cui facciamo sì una strage di materiale biologico, però riusciamo a ricostruirne perfettamente il profilo. E questo è estremamente importante perché c'è veramente una classe enorme, o meglio un insieme enorme di virus, di molecole, ma anche a livello di cose ben conosciute come il DNA, come questo si comporta, come viene attaccato o no da agenti, che possono essere finalmente studiati come se fossero nel loro ambiente naturale, tanto che si possono ottenere nell'ambiente naturale fino all'ultimo istante, iniettati nella camera sperimentale, arriva il fascio di questo FEL, gli studia, il campione è perso, però abbiamo l'immagine. Voi sparate, per esempio, delle proteine una dopo l'altra dentro questa camera in modo tale che vengano centrate da questo lampo densissimo di luce. Questa è una delle modalità, ma poi ci sono anche degli altri tipologie di esperimento che potete fare con questa sorgente di luce? Certo, allora, un altro che mi viene subito in mente è quello che viene chiamato Warm Dance Matter, ovvero sfruttiamo il fatto di riuscire a concentrare così tanti fotoni in così poco tempo, che equivale a un'energia che è circa 10.000 volte superiore all'energia che qualsiasi materiale in grado di sopportare. Noi distruggiamo qualsiasi materiale con cui irraggiamo, che noi irraggiamo con la nostra radiazione. Ora cosa succede? Controllando questo flusso di fotoni, quindi riducendolo opportunamente, eccetera, possiamo mettere il materiale nelle condizioni in cui noi vogliamo, ovvero possiamo mettere le condizioni di ebollizione, possiamo mettere le condizioni di esplosione controllata, ovvero creare le condizioni in cui lui raggiunge temperature altissime di decine di migliaia di gradi, anche milioni a seconda del materiale, di pressione del gigapascal, e studiarne l'evoluzione. Questo cosa comporta? Comporta che noi riusciamo a capire quali sono i meccanismi di rottura, o se vogliamo andare più in alto nella scienza, ovvero a livello astrofisico, possiamo ricreare la materia, lo stato della materia all'interno del core delle stelle, del core dei pianeti. Magari delle stelle siamo al limite, però sicuramente dei pianeti e delle stelle più piccole. Abbiamo raccontato, se non sbaglio, due modalità sperimentali. Ce ne sono una terza e una quarta anche. Sì, la terza l'abbiamo accennata all'inizio, è quella chiamata di pump and probe, ed è in pratica, si divide il fascio in due piccole parti, cioè due mezze parti. Una va a innescare un processo tipicamente fisico e l'altra va a fare il probe, ovvero va a vedere cosa è successo. Va a illuminarlo in un certo senso. Va a illuminarlo, esatto. In questo modo noi possiamo ritardare il secondo impulso di fotoni rispetto al primo in maniera controllata, con precisioni del femtosecondo, però l'impulso è lungo 30, quindi diciamo step di 30 femtosecondi, e a step di 30 femtosecondi noi possiamo fare il famoso film di cui si diceva prima, per cui inneschiamo una reazione e ne seguiamo l'evoluzione. Questi sono studi che furono già fatti in passato con i laser convenzionali, però di nuovo con lunghezze d'onda dell'ordine della luce visibile, quindi a livello del micron, del millesimo di millimetro. Gli oggetti che venivano studiati erano di queste dimensioni? Erano di quelle dimensioni, non solo, ma poi era una lunghezza d'onda che viene assorbita praticamente da tutto, vabbè, dai materiali trasparenti anche in parte. Qui riusciamo ad andare alla lunghezza d'onda che va in risonanza con un determinato elemento, per cui se noi vogliamo studiare all'interno di un composto cosa fa il calcio, inneschiamo il processo, andiamo con la lunghezza d'onda del calcio e andiamo a studiare solo lui, dimenticandoci di tutti i resti. Possiamo fare una mappa di come evolve il calcio o chi per lui all'interno di questa struttura durante un processo fisico. Quarta modalità sperimentale? La quarta modalità sfrutta il fatto che noi abbiamo una quantità enorme di fotoni in poco tempo, per cui se noi associamo a questi un rivelatore che è abbastanza veloce da aprirsi e chiudersi in pochi nanosecondi, noi siamo in grado di studiare fenomeni in materie molto diluite, proprio perché riusciamo, di nuovo selezionando l'energia giusta del fotone, a mettere in evidenza anche piccolissime quantità di un materiale all'interno di una soluzione o di un metallo, quello che si vuole. Beh, all'interno di un metallo, in questo caso alle nostre lunghezze d'onda no, solo in superficie, per cui mettere in evidenza materiali non visibili con altre tecniche. Grazie Daniele Cocco. Grazie a voi. Non c'è niente di più noto e vissuto della menopausa, ma allo stesso tempo questa evoluzione nella vita delle femmine della nostra specie non ha ancora trovato una motivazione. L'interrogativo aleggia da tempo, perché il fatto singolare è che solo due altri animali, le orche marine e le balene pilota, cetacei del genere globicefali, presentano questo comportamento fisiologico. Al di fuori di questo ristrettissimo gruppo di tre casi, la menopausa non è presente. C'è in aria una tesi: la menopausa è presente nella nostra specie per ragioni più che altro sociologiche, ragioni di efficienza del gruppo, e cioè nella nostra comunità le femmine mettono al mondo i piccoli, ma poi si resta tutti insieme. Pensate a questa cosa in termini evoluzionistici, ovvero su una scala temporale molto lunga. Non pensate alla situazione contemporanea nella quale la famiglia che vive tutta riunita nella stessa grande casa di campagna, magari è un dato largamente assente. In queste condizioni si è man mano selezionato nelle centinaia di migliaia di anni un comportamento che favorisce il ruolo di una femmina che, per dire in breve, insomma, fa la nonna. Infatti, in questo modo entra in campo una funzione di cura dei piccoli molto importante e si lascia spazio alle maggiori prestazioni procreative delle giovani. Questa tesi non è priva di zone d'ombra, però è considerata un approccio dignitoso alla soluzione del mistero. Adesso un gruppo di ricerca inglese delle università di Exeter e Cambridge, studiando la vita nei branchi di orche e di balene pilota, ha ricavato che man mano che le femmine invecchiano, il loro legame con il gruppo cresce, ovvero la loro dimensione sociale, quindi le relazioni con tutti gli altri, paiono svilupparsi. Se così non fosse, se le femmine conducessero una vita molto più autonoma, se, come avviene in moltissimi casi, femmine e maschi tendessero a incontrarsi solo per l'accoppiamento e quindi senza alcuna vita di gruppo, ecco che il passaggio di testimone della fertilità non avrebbe alcun senso. Come vi ho detto, i conti non tornano del tutto, e qui sarebbe troppo lungo entrare nei dettagli, però una buona traccia sembra aprirsi in questa direzione. Mebius finisce qui per questa settimana. Che dire, si avvicinano le vacanze. Guardate che noi andiamo in onda anche in agosto e vi ricordo che potete ascoltarci ovunque voi siate, via radio o via internet, ovunque. Oppure con l'aria che tira saremo tutti sostanzialmente nello stesso posto in cui siamo stati tutto l'anno. No, dai, non siamo così pessimisti. Buona serata a tutti e a tutte e alla prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.